as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui oggi al Pane delle Rose. Questa sarà la prima di due puntate dedicate alla lotta di classe in Europa. Ho potuto ascoltare la festa rossa di Sinistra Classe Rivoluzione, Jorge Martín, compagno spagnolo che lui lavora a Londra, nella sede centrale della tendenza internazionale marxista, e lui che insomma si occupa di analizzare tutte le lotte di classe, tutte le battaglie dei lavoratori che stanno svolgendo in tutto il mondo, ci ha parlato un po' di quello che sta accadendo in Europa. Abbiamo una traduzione di Serena Capodicasa, una compagna sempre di Sinistra Classe Rivoluzione che sta a Milano, la mia paesana. Io ho potuto presentare la campagna, poi ne parleremo per quanto riguarda la scala mobile, perché il mio pallino ce l'ho sempre in testa, ci sarà una campagna che porterà avanti dei compagni delle giornate di marzo della sinistra della CGIL, di cui anche io faccio parte. Sono stato lì a presentare questa campagna e poi ho ascoltato Jorge Martí. Volevo intervistarlo, ma io penso che è stata così esaustiva la sua relazione che merita di essere ascoltata tutta. È molto lunga, faremo due puntate, ed è importante per tutti i lavoratori che vogliono capire cosa sta accadendo in tutta Europa e perché, insomma, fare delle riflessioni anche come mai in Italia questo non accade. Ok? Adesso ci ascoltiamo un pezzo musicale che ci ricorda sempre che siamo sfruttati e chi sono i padroni di questo pianeta. E poi ci ascoltiamo la prima parte dell'intervista a Jorge Martín. Ciao, a dopo. No Zeus intento, paiso astro mudo, batendo asas, una noite calada. Veñen en bandos con pez de veludo, chupar o sangue fresco da manada. A todas partes llegan os vampiros, posan nos predios, posan nas calzadas, traenos el ventre de esposos antiguos, mas nada os prende as vidas acabadas. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada, nada de nada. Chando medo, toman os vencidos, oen sos gritos na noite apapada. Xacen nos fosos vítimas dun credo, e non se esgota o sangue da manada. Son os mordomos do universo todo, amos a forza, donos en lei. Enchen as tullas, beben viño novo, danzan a ronda no pinal do rei. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo e non deixan nada, nada de nada. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo e non deixan nada. many years ago, the American writer Mark Twain. Molti anni fa, uno scrittore americano, Mark Twain, was told, the newspaper said, the published the news that he was dead, that he had died. Si dice che sui giornali venne fuori la notizia che fosse morto. And he replied, well, news of my death are greatly exaggerated. E lui rispose, le notizie sulla mia morte sono molto esagerate. And I think we can say the same thing for news of the death of the class struggle. Penso che possiamo dire la stessa cosa sulla notizia della morte della lotta di classe. News of the death of the working class. Notizie sulla morte della classe operaia. Which is very much alive. Che è molto viva. And as they say in English, alive and kicking. E come dicono in inglese, viva e che tira calci. Sì, sì. Che colpisce. Sì. Now we're talking about what we see today in Europe, in many countries, is a wave of strikes. Ma quello che vediamo in Europa, in molti paesi, è un'ondata di scioperi. But in fact, this is not a new thing. Ma di fatto questa non è una novità. The working class had not gone anywhere. La classe operaia non era andata da nessuna parte. And even before the events in the last one year, there were big battles of the working class in Europe. E anche prima degli eventi dell'ultimo anno ci sono state importanti lotte della classe operaia in Europa. You go back to 2011, there were big struggles over cuts, over austerity. Per esempio, se andiamo indietro al 2011, ci sono state lotte contro i tagli, contro l'austerità. There were many, many general strikes, for instance, in Greece against the memorandum of the Troika, the attempt of the European Union to impose austerity on the workers. Ci sono stati molti scioperi generali in Grecia contro il memorandum della Troika, contro il tentativo di imporre l'austerità ai lavoratori. And even more recently, at the beginning of the pandemic in 2020, e anche più recentemente, all'inizio della pandemia nel 2020, workers also went on strike. I lavoratori sono scesi in sciopero. In many cases, illegal, spontaneous strikes, in order to defend the health and safety of the working people. In molti casi scioperi illegali, scioperi spontanei per difendere la salute dei lavoratori, delle persone della classe. In any case, the class struggle was never dead. In ogni caso, la lotta di classe non è mai morta. Because the class struggle goes on all the time. Perché la lotta di classe continua, va avanti sempre. Even when the workers are not on strike or not organizing, the ruling class carries out the class struggle on their side. Anche quando non ci sono scioperi, la classe non lotta, la classe dominante porta avanti la lotta di classe dal suo punto di vista, dai suoi interessi. Now, as I said, in the last year, more or less, we have seen big class battles in many European countries. Come ho già detto, nell'ultimo anno abbiamo visto grandi lotte da parte dei lavoratori in diversi paesi in Europa. And why is this? E perché è successo questo? Well, first of all, because the ruling class, the capitalists, want to make the workers pay for the price of the crisis of their system. Prima di tutto perché la classe dominante vuole far pagare ai lavoratori il prezzo della loro crisi. By attacking all the gains that the working class has won over many decades of struggle. Attaccando tutte le conquiste che i lavoratori hanno conquistato in anni di lotte. We see this in the case of France, where they wanted to increase the retirement age by 2 years. Lo abbiamo visto in Francia, dove hanno voluto aumentare l'età pensionabile di 2 anni. And it's many years in France that there have been battles over the pensions. You can go back to 95, 96, when the railway workers were under attack over the question of pensions. E sulla questione delle pensioni abbiamo visto diverse lotte in Francia, andando indietro fino al 95, proprio sulla questione delle pensioni. In fact, if you want to know the ideal case for the ruling class is that you work until you die, basically. E di fatto per la classe dominante l'ideale di età pensionabile sarebbe lavorare fino alla morte. So there are many battles over the defense of acquired rights that were won over struggle over many years. E quindi ci sono diverse lotte per la difesa di condizioni, di diritti che sono stati conquistati nelle lotte di molti anni nel passato. But also, very importantly, over the question of inflation. ma anche una cosa molto importante sulla questione dell'inflazione. Inflation has developed very quickly. L'inflazione si è sviluppata molto rapidamente. In many European countries, 5, 8, 10, 12%. In molti paesi europei a livelli del 5, 8, 12%. And what this means is that any group of workers that does not struggle to recover what they are losing by inflation. E questo vuol dire che i settori di lavoratori che non lottano per recuperare il loro potere d'acquisto eroso dall'inflazione will automatically see their wages come down, or the amount of things that they can buy with their wages is less. Vedranno automaticamente ridurre i propri salari o comunque poter comprare meno cose con i loro salari. The inflation is also a form of class struggle in that sense. In questo senso l'inflazione è una forma di lotta di classe. And in the last one year, particularly in 2022, but in the last one or two years, workers across Europe have been losing purchasing power of their wages. E nell'ultimo anno, negli ultimi uno o due anni, in particolare nel 2022, i lavoratori hanno perso potere d'acquisto a causa dell'inflazione. In Spain, for instance, average wages have fallen by 5.3% in one year. In un anno in Spagna i lavoratori hanno perso il 5,3% di potere d'acquisto. In Italy by 2.2%, in Germany by 3.9%, nearly 4% in one year. In un anno in Italia questa cifra del 2,2%, in Germania del 4% di riduzione del potere d'acquisto dei salari. And of course the workers are not just going to accept this. E naturalmente i lavoratori non accetteranno questo. And these two questions, inflation and attacks on acquired rights. E queste due questioni, l'inflazione da un lato e l'attacco alle condizioni e ai diritti, are directly related to the crisis of capitalism. Sono direttamente connesse alla crisi del capitalismo. Capitalism is in crisis, is no longer able to afford the reforms that were won in the past by the labor movement. Il capitalismo in crisi non può più permettersi le riforme che sono state concesse in passato con le lotte, dopo le lotte della classe del movimento operaio. Let's start with Britain. What's been happening in Britain over the last one year? Cominciamo dalla Gran Bretagna. Cosa è successo in Gran Bretagna nell'ultimo anno? Many things have happened in Britain that you probably have not read in the newspapers. Tante cose che probabilmente non avete letto sui giornali. Because it's not just the death of the queen and the coronation of the new king. Non solo la morte della regina e l'incoronazione del nuovo re. There has been in fact a wave of strikes, workers' strikes, that's been started just one year ago. C'è stata un'ondata di scioperi cominciata proprio un anno fa. And these strikes are is the biggest wave of strikes for 30 years in Britain. La più grande ondata di scioperi degli ultimi 30 anni in Gran Bretagna. Involving approximately 1.5 million workers. Che ha coinvolto circa 1,5 milioni di lavoratori. We have also seen the beginning of the coordination of different groups of workers in their common struggle. E abbiamo visto anche il coordinamento tra diversi settori, diverse categorie di lavoratori in questa lotta comune. The strikes started with the railway workers. La lotta è cominciata a partire dai lavoratori delle ferrovie. The railway workers is a small union of about 40,000 members, but it's a very militant left-wing fighting union. Da parte di un sindacato piccolo di circa 40,000 membri iscritti, ma che è un sindacato di sinistra molto combattivo. And they have been on strike for one year, not completely on strike for one year, but on a series of battles for over one year now. E questi lavoratori sono stati in sciopero per un anno, chiaramente non continuativamente, ma con una serie di scioperi che si sono sviluppati nell'arco di un anno. But this struggle of the railway workers then gave way to a generalized movement of many public sector workers mainly. Ma da questa lotta dei lavoratori delle ferrovie si è poi estesa a tutta una serie di altri settori di lavoratori del pubblico impiego. Particularly in healthcare and education. Soprattutto nel settore della sanità e dell'istruzione. Now I want to say something about this. Voglio dire qualcosa su questo. Some of the people who are coming out on strike. Alcune persone che sono scese in lotta, in sciopero, they are not traditionally militant sections of the working class. non sono, non fanno parte di settori tradizionalmente militanti della classe operaia. For instance, one of the sectors that's on strike is the nurses, nursing workers. Per esempio, uno dei settori, una delle categorie che sono scese in lotta sono gli infermieri. They are organized. The organization that's calling this strike is the Royal College of Nursing. Che sono organizzati in un'organizzazione che si chiama Royal College dell'infermieristica, Royal College of Nursing. Which is not a trade union, is a professional body. Che non è un sindacato, è un ente professionale. And this organization had never called a national strike in its 106 years of history. E questa organizzazione non aveva mai convocato uno sciopero nella sua storia di 106 anni. And now they are one of the most militant sections of the class in Britain. E adesso sono uno dei settori più combattivi della classe operaia britannica. Not only this, there was one point at which about a few weeks ago when the leadership of the union made a deal with the government. Non solo, qualche settimana fa la direzione di questo sindacato ha fatto un accordo con il governo. And they were offering a 5% wage increase. Che offriva un aumento salariale del 5%. And a set amount of money for the previous year. E metteva, diciamo, a disposizione dei soldi per l'anno precedente. This is not a very good agreement because inflation in Britain last year was 10%. Che non era un accordo molto favorevole perché l'inflazione è stata nell'ultimo anno in Gran Bretagna del 10%. The leaders of the RCN, the Royal College, they put this to a vote of the members and they recommended a positive vote for this agreement. I dirigenti del Royal College of Nursing hanno posto questo accordo alla votazione tra i lavoratori raccomandando un voto favorevole. But the members voted against by a big majority and then they voted by a big majority to continue the strike action. Ma gli iscritti a grande maggioranza hanno votato contro questo accordo e a grande maggioranza hanno votato per portare avanti lo sciopero. Another group of health workers who's on their own strike is the junior doctors, the doctors that they just finished their university studies and they are starting work. Un altro settore di lavoratori che sono scesi in lotta sono i dottori specializzanti, quelli che in Italia sono gli specializzanti, i medici appena laureati. And they are asking, they also never been on, they've been on strike only once in their history. Che sono scesi in sciopero solo una volta nella loro storia. They are organized not by a trade union, by the British Medical Association, which is also a professional body. Ancora non organizzati da un sindacato, ma da un'organizzazione professionale, la British Medical Association. And they are demanding, there's one demand, they want a 35% wage increase. E la loro rivendicazione è di aumenti salariali del 35%. And when the journalists in the newspapers and the television say but this is a very radical, this is a lot of money, you are asking for too much. E quando un giornalista gli ha detto in un'intervista ma questo cioè è molto radicale, state chiedendo troppo. They say no this is very moderate demand. Hanno risposto no questa è una rivendicazione molto moderata. Because this demand if we win it's only wage restoration. This will recover what we have lost in the last 5 years. Perché se vinciamo con questa rivendicazione noi semplicemente recuperiamo quello che abbiamo perso in termini di potere d'acquisto negli ultimi 5 anni. And there's another thing that these health workers are saying. E c'è un'altra cosa che questi lavoratori della sanità dicono. They say during the pandemic. Dicono durante la pandemia in Britain everybody will come out every Thursday and clap for the health workers. E in Gran Bretagna tutti i giovedì si usciva dalle case ad applaudire per i lavoratori della sanità. The very important job that they were doing fighting the pandemic per and so il lavoro importante che facevano per combattere la pandemia e così via. And they say we don't want claps, we want decent pay. E quindi hanno detto non vogliamo applausi, vogliamo dei salari decenti, delle paghe decenti. There's also been strikes in the education sector. Ci sono stati scioperi anche nel settore dell'istruzione. And again here the university lecturers have been on strike for a few months. E qui ci sono stati scioperi da parte dei dipendenti degli insegnanti, dei giovani insegnanti nell'università. Again the leaders of the union, the UCU, have recommended acceptance of an agreement, and the members of the union have voted massively against, and they want to continue the strike. Anche qui gli iscritti all'UCU, il sindacato che li organizzava, hanno votato massicciamente contro l'accordo che veniva proposto per continuare la lotta. So this is the mood that's developing. E questo quindi è il clima che si sta sviluppando. It's a mood that's coming from below. È un clima che viene dal basso. In most cases it's not that there's a very radical trade union leadership that's pushing things. No, it's the workers from below that are pushing this movement. Nella maggior parte dei casi non sono dirigenti combattivi che spingono alla lotta, al contrario, sono i lavoratori dal basso, dalla base, che spingono per la lotta. And for the first time in many years in Britain there are now discussions about a general strike. E per la prima volta da tanto tempo in Gran Bretagna si sta parlando di sciopero generale. Now, I come from Spain, and in Spain there are many general strikes. Io vengo dalla Spagna dove ci sono molti scioperi generali. But these are not real general strikes. There's sometimes 24-hour general strike. The union leaders, they open they want to release the pressure, and they call one general strike, and then nothing else. Che non sono dei veri e propri scioperi generali, sono come dei modi con cui i dirigenti aprono e chiudono il rubinetto per dare un po' di valvola di sfogo, però dopo non succede niente. But in Britain the tradition is a bit different. A general strike means an all-out general strike. In Gran Bretagna la tradizione è un po' diversa, perché quando si parla di sciopero generale si parla di sciopero generale ad oltranza. And the last time there was a general strike in Britain was in 1926. E l'ultima volta che c'è stato uno sciopero generale in Gran Bretagna è stato nel 1926, circa 100 anni fa. So there's now been a big discussion. Some trade union leaders, like the railway workers, they said, well, yes, we do need a general strike. E quindi adesso c'è una discussione su questo. In alcuni settori sindacali, per esempio tra i lavoratori delle ferrovie, c'è questa rivendicazione di portare avanti l'idea di uno sciopero generale. Abbiamo bisogno di uno sciopero generale. And a general strike has not been called, but there has been some coordination of the different groups of workers to strike on the same days. Non è stato convocato uno sciopero generale, ma ci sono state forme di coordinamento da parte di diverse categorie di lavoratori per scioperare nello stesso giorno. And the mood that's developing in the trade union movement in Britain, in the working class, is a mood of increased confidence. E il clima che si sta sviluppando nella classe lavoratrice britannica è di crescente fiducia. Some strikes have been won. Alcuni scioperi sono stati vittoriosi. Particularly in those sections where the workers are stronger. Soprattutto in quei settori dove i lavoratori sono più forti. For instance, the dock workers in Liverpool. Per esempio, nei portuali di Liverpool. They went on strike for 3 weeks over a period of time. Che hanno scioperato per 3 settimane. And they won a wage increase of 18%. E hanno ottenuto degli aumenti salariali del 18%. And the conclusion that people are reaching in Britain is, if we want to maintain our wages, we need to act. We need to do something about it. La conclusione a cui stanno arrivando le persone in Gran Bretagna è, se vogliamo mantenere i nostri salari, dobbiamo agire in qualche modo. Still there are obviously many, many problems. Sicuramente ci sono tanti problemi. And it's not easy to win a victory in this period of crisis of capitalism. Non è facile ottenere una vittoria in questo periodo di crisi del capitalismo. But as they say, ma come dicono, if you struggle, you can lose, but if you don't struggle, you have already lost. Come si dice, se lotti puoi perdere, ma se non lotti hai già perso. Revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Ecco, abbiamo ascoltato la prima parte dell'intervista a Jorge. Avete sentito, insomma, quello che sta accadendo soprattutto in Inghilterra, anche in Francia, poi ne parleremo anche nella seconda puntata, soprattutto della Francia. Insomma, tutto è possibile. Ci ha spiegato come anche dove la classe spesso per anni non ha lottato, dove una dei lavoratori che non sono certamente tra i più rivoluzionari, o teoricamente non erano tra i più rivoluzionari, in realtà nei momenti in cui si vengono a rompere certi equilibri, nei momenti in cui i lavoratori dicono basta, anche chi per anni, per decenni, non è stato, diciamo, la punta di diamante della lotta di classe in certi paesi, lo può diventare. Questo ci dà speranza anche per l'Italia. Ecco, vi lascio e martedì prossimo ci sarà la seconda parte, mi raccomando non mancate. Ci sentiamo martedì prossimo. Orgoglioso de estar. Orgoglioso.